Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi, bilancio di fine anno, abbiamo una maggioranza sufficiente e sarà ampliata. DDL Gelmini, oggi il voto definitivo a Roma, tribunale blindato per il processo a 7 dei 23 manifestanti fermati il 14. Esplode un pacco bomba all'ambasciata svizzera a Roma, un ferito. Folla per i funerali di Enzo Bearzot a dargli l'ultimo saluto. I suoi ragazzi dell'82. Buongiorno Presidente, Giuseppe Leboffe dell'ADN Kronos. In diretta da Palazzo Chigi la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. In questo momento le domande dei giornalisti. Berlusconi ha già fatto la parte introduttiva, allora ci colleghiamo con il nostro Vincenzo Miglietta per riepilogare quanto detto da Berlusconi. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, annuncio lo slittamento delle tasse per l'Abruzzo, conferma la volontà di andare avanti per tutta la legislatura, ribadisce l'obiettivo di unire tutti i moderati in un'unica forza politica cambiando il nome al Popolo della Libertà. Nella conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio affronta per prima la riforma dell'università e addirittura ad arrivo a Palazzo Madama consentirà ai nostri studenti di essere al passo degli altanei europei, ha detto Berlusconi, sentiamo le sue parole. Quelli che sono i termini della riforma sono stati 2 anni fa depositati e discussi con il Consiglio Nazionale degli Studenti. Da allora il dialogo è stato continuativo, ci sono stati oltre 120 incontri, di cui 100 incontri informali e 20 incontri assolutamente formali con il Consiglio Nazionale degli Studenti. E questa legge comporta una rivoluzione nell'università che tutto può produrre meno che qualche cosa di negativo per gli studenti. Anzi. Il capitolo riforme, quindi senza i finiani sarà anche più facile realizzarle a partire dalla giustizia, ha detto il Premier, che è tornato quindi sull'importanza della governabilità, della stabilità dei conti, grazie anche ad una maggioranza che sarà allargata. Ma ascoltiamo questo passaggio. È una maggioranza con cui si può tranquillamente governare. Ho già ricordato in altra occasione che in Europa ci sono 4 governi di minoranza, la signora Merkel non ha la maggioranza in Senato. Nell'Occidente c'è un governo di minoranza da 2 anni in Canada, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama non ha la maggioranza in una delle 2 Camere. Noi ce l'abbiamo in entrambe, ma siamo assolutamente convinti di poter ampliare per le riforme che dobbiamo presentare al Parlamento, all'approvazione del Parlamento, la nostra maggioranza alla Camera. La questione rifiuti a Napoli, il governo ha fatto quanto doveva e comunque c'è una manovra contro noi, ha denunciato Berlusconi, il caso Presti Giacomo infine è risolto, ha detto il Premier. E da come è tutto, linea allo studio. Grazie, proviamo a restare per un attimo a Palazzo Chigi, qualche frammento in diretta dell'intervento di Silvio Berlusconi. Dare a tutte le famiglie libiche una abitazione in proprietà. C'è un grandissimo programma che darà a tutte le famiglie libiche una popolazione di proprietà in ragione di 25 metri quadrati per ogni componente della famiglia. Questo è una cosa di cui mi attribuisco parte del merito. Ma entriamo in studio, avremo modo di commentare ancora le parole del Presidente del Consiglio. Torniamo a Roma perché c'è stato un pacco bomba che è esploso all'ambasciata svizzera poco fa. Sappiamo che c'è un ferito. Andrea Viali ci racconta che cosa è successo. Andrea. Sì Alessio, le notizie sono ancora frammentarie e secondo i primi accertamenti l'addetto dell'ambasciata svizzera è stato investito da questa esplosione verso mezzogiorno mentre stava aprendo un pacco arrivato nella sede diplomatica. Il ferito è uno svizzero di 50 anni, ferito in modo grave ad entrambe le mani, è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha subito portato in ospedale dove è ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, si sta valutando se operarlo e a quanto sembra rischia di dover subire l'amputazione di parte di una mano. All'ambasciata svizzera che si trova nel quartiere Parioli sono arrivati i carabinieri che stanno compiendo i rilievi del caso. 2 giorni fa, lo ricordiamo, a Roma era stato scoperto un finto ordigno senza detonatore in una stazione della metropolitana, ma al momento non sembra esserci comunque un collegamento diretto fra queste 2 vicende. Per ora è tutto. Grazie Andrea Viali. Oggi è anche la giornata dell'ultimo atto della riforma dell'università, DDL Gelmini al voto al Senato dopo le tensioni che ci sono state ancora ieri tra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto con Alessandra Schepisi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Oggi l'iter è decisamente più spedito per la riforma Gelmini dopo che la situazione si è sbloccata ieri sera quando si è raggiunta un'intesa tra maggioranza e opposizione. Dunque PD e Italia dei Valori hanno desistito dal continuare l'ostruzionismo contro il provvedimento che ora si appresta a diventare legge. Intanto, riferendo alla Camera, il ministro dell'Interno Maroni ha elogiato le forze di polizia che hanno dato prova, ha detto, di grande equilibrio, definendo una brutta cosa l'assalto alla questura di Palermo da parte dei manifestanti, mentre gli studenti hanno espresso soddisfazione per l'incontro di ieri al Quirinale. Ma sul fronte dell'ordine pubblico la questura sta seguendo anche la giornata di oggi con molta attenzione. Ufficialmente non sono previste proteste, ma attorno al Senato c'è davvero un grande spiegamento delle forze dell'ordine pronte a fronteggiare qualsiasi situazione imprevedibile. Anche il tribunale blindato per il processo nei confronti di 7 dei 23 manifestanti fermati durante gli scontri del 14. E sulle proteste è tornato a parlare anche il capogruppo del PDL al Senato, Gasparri. Sentiamo. Violenze, contestazioni non hanno impedito che si arrivasse alla tappa finale, in un confronto spesso serrato, ma dove ciascuno, anche le opposizioni ovviamente, ha potuto esprimere i propri contenuti, le proprie passioni e le proprie prospettive. È comunque un merito ulteriore del centrodestra, con la riforma dell'università messo un altro mattone fondamentale alla costruzione di un grande edificio che il centrodestra vuole erigere per rendere l'Italia più moderna, a cominciare dalla formazione e dall'istruzione. E intanto l'opposizione ribadisce il suo giudizio negativo sul provvedimento. La capogruppo del PD Finocchiaro. Questa riforma è la foglia di fico sui tagli che Tremonti ha dato alla conoscenza, all'università, alla scuola, mentre la spesa pubblica cresce del 3%. Su questi capitoli si taglia del 5%, con punte molto gravi nell'università. Questo significa che questo paese rinuncia a mettere in campo la propria forza competitiva che è data dai talenti giovanili. Che questo avviene nel campo in cui più si sperimenta in questo paese la disuguaglianza. Il DDL Gelmini taglierà il traguardo con l'approvazione definitiva alle 16 dopo le dichiarazioni di voto che cominceranno alle 15. E da Palazzo Madama è tutto, a voi la linea. Grazie anche ad Alessandra Schepisi. Prima di proseguire con la pagina dedicata all'università, un'ultima ora perché finalmente la risoluzione del contratto tra Benitez e l'Inter era una notizia attesa già da diverse ore, adesso è ufficiale, Rafa Benitez non è più l'allenatore dell'Inter da pochissimi istanti. Ieri gli studenti hanno incontrato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che in qualche modo ha interrotto il silenzio che si era creato tra le istituzioni e i giovani. Abbiamo in collegamento uno di loro, Giorgio Paterna, buongiorno. Buongiorno. Che cosa vi ha detto ieri Napolitano? Il Presidente Napolitano è stato estremamente cordiale, ha dato un segnale estremamente importante per noi e... Quando ci ha ricevuto è stato molto semplice, lui, ci siamo seduti intorno a lui e lui ha semplicemente detto: vi ascolto, spiegatemi le vostre ragioni. Noi abbiamo spiegato a lungo le ragioni nel merito del DDL, le ragioni per cui avvertiamo uno scollamento tra il governo, tra la maggioranza e le istanze che portiamo avanti, che non siamo strumentalizzati, non è una questione ideologica. Abbiamo spiegato nel merito della riforma perché non la condividiamo, perché non condividiamo l'intero impianto, a cosa porterà questa riforma. Abbiamo spiegato perché la riforma inserita anche in un contesto di pesanti tagli all'istruzione e al diritto allo studio, secondo noi contrasta con i principi della Costituzione. Questo però è quello che gli avete detto voi. La domanda sì. È cosa vi ha detto lui? Lui ci ha ascoltato e ha detto: io prendo atto di quello che mi dite, mi rendo conto che la situazione per l'università è delicata, vi ascolto, vi chiedo di inviarmi anche le proposte. Credo che questo sia stato il segnale in realtà più forte. Inviatemi le vostre proposte in maniera tale che io possa rendermi conto anche di qual è la vostra idea di università. Possiamo dire che da lui avete ricevuto forse un ascolto diverso, maggiore da quello che invece dite di avere ricevuto dalle istituzioni altre e dal governo in particolare. Le faccio sentire un passaggio di quello che poco fa ha detto Berlusconi nella conferenza stampa che è ancora in corso a Palazzo Chigi a proposito del dialogo con voi studenti. Ha detto: li abbiamo incontrati 120 volte. Quelli che sono i termini della riforma sono stati 2 anni fa depositati discussi con il Consiglio Nazionale degli Studenti. Da allora il dialogo è stato continuativo, ci sono stati oltre 120 incontri, di cui 100 incontri informali e 20 incontri assolutamente formali. Giorgio Paterna, a lei risultano questi incontri? Guardi, e poi l'altra domanda che le faccio in chiusura, un attimo, l'altra domanda che le faccio è: oggi verrà votato il DDL Gelmini, che cosa farete? Andrete avanti con le proteste? Guardi, io ho tutti gli elementi per poter rispondere a queste affermazioni, perché io ero un rappresentante del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari di cui parla Berlusconi, di cui parla la Gelmini. Il Consiglio Nazionale non si è mai espresso sul DDL, non ha mai formulato un parere sul DDL. Il Consiglio Nazionale si è sciolto per il suo rinnovo ad aprile, le elezioni si sono svolte il 12 e il 13 maggio del 2010 e nonostante il 13 maggio si siano chiuse le elezioni, per 6 mesi il Ministro Gelmini, che aveva l'onere di convocare la prima seduta, non ha convocato il Consiglio Nazionale. Cioè tutto il tempo in cui veniva discusso alla Camera, al Senato prima, alla Camera e poi al Senato ancora, il CNSU non è mai stato consultato perché non è mai stato convocato dal Ministro Gelmini. Quindi il Ministro Gelmini ha pienissime responsabilità, ciò che dice Berlusconi è estremamente falso. Va bene, e su questo punto mi sembra chiarissima la vostra posizione. In 2 secondi, flash, andrete avanti con la protesta, Paterna? Penso di sì, come? Sì, andremo avanti con la protesta, oggi verrà approvato, però ieri noi abbiamo vinto culturalmente contro questa idea di democrazia e di arroganza che è il governo. Come? Continuando a sfilare, portando dietro quello segno che la popolazione sta provando rispetto a questa arroganza di un governo appeso a 3 voti, che ignora le istanze e le difficoltà in cui vive questo paese. Va bene, grazie. Grazie. Abbiamo sentito uno degli studenti che ieri ha incontrato Giorgio Napolitano in questa giornata che è ancora una volta decisiva sul fronte dell'università. Adesso invece parliamo di tutt'altro, perché a Milano c'è stata molta folla, gente comune, ma anche molti calciatori ai funerali di Enzo Bearzot. Molto commovente, Dario Ceccarelli in studio con noi, questa corona di fiori, i suoi ragazzi, i tuoi ragazzi dell'82. Sì, erano proprio i suoi ragazzi, quelli che lui ha sempre amato e che non ha mai dimenticato anche quando si è allontanato dal calcio. C'erano tutti, c'era Paolo Rossi, c'era Antonioni, c'erano Bergomi, c'erano Zoff, insomma tutti i suoi ragazzi che gli hanno così tributato un ricordo più affettuoso che tecnico, perché era, come diceva Paolo Rossi, un grande papà, uno che quando un giocatore aveva un momento di difficoltà sapeva ascoltarlo. Paolo Rossi, ricordiamo, era stato riportato in nazionale dopo la squalifica, nessuno credeva in lui. È stata una cerimonia così molto friulana, con la pioggia battente, con la gente del quartiere di Porta Vigentina, e tutti lo conoscevano come Enzo perché lui andava al bar in edicola. Era un uomo che piaceva, a cui piaceva parlare lui la diceva il popolo, la gente semplice. E adesso ascoltiamo così i commenti di Bergomi e di Graziani. Ma di grande dolore, di tristezza sicuramente, perché io devo tantissimo a questa persona. Lui ci ha lasciato fisicamente da questo mondo, ma con il pensiero, con i dialoghi, con le parole, noi staremo sempre vicino a lui, sempre, perché è stato non soltanto un allenatore, un selezionatore, ma per noi è stato un secondo papà. Dario Ceccarelli, credo che non sarebbe dispiaciuto nemmeno a Bearzot in questo momento commentare un'altra notizia di calcio che riguarda l'atteso divorzio tra l'Inter e Benitez di pochi minuti fa. Che dire? Sì, questo divorzio finalmente si è fatto. Di solito i matrimoni, invece questo è un divorzio che è stato risolto il contratto di Benitez pochi minuti fa. Ufficialmente non è più l'allenatore dell'Inter e proprio dice la trattativa per una separazione consensuale si è appena conclusa. A questo punto si tratta di sapere però chi siederà su questa panchina, che comunque nell'ultimo anno, ricordiamo, ha messo assieme 5 titoli con 2 grandi allenatori, comunque li si voglia vedere, che però sono andati via. Per chi arriverà, si immagina Leonardo, che in questo momento l'ex tecnico del Milan è più in pole position, e sarà comunque una grossa responsabilità. Resta una mia opinione e la dico: secondo me Moratti ha gestito male questa vicenda, perché comunque ha perso 2 allenatori in pochi mesi, 2 allenatori che sono comunque grandi. 2 pezzi da 90. Grazie Dario Ceccarelli. GR24, seconda parte, ben ritrovati. Nella prima abbiamo parlato del bilancio di fine anno del Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha detto abbiamo una maggioranza sufficiente e sarà ampliata. DDL Gelmini, oggi il voto definitivo. A Roma esplode un pacco bomba all'ambasciata svizzera, c'è un ferito che rischia di perdere le mani. A Milano invece folla per i funerali di Enzo Bearzot, a dargli l'ultimo saluto ai suoi ragazzi dell'82. Adesso parliamo del confronto Fiat-Sindacati su Mirafiori. E ci sono dichiarazioni anche di pochi istanti fa del segretario della CISL Bonanni, molto fiducioso su questa trattativa che riguarda il futuro dello stabilimento Fiat di Mirafiori. Paolo Piacenza ci aggiorna su questa giornata di incontri. Paolo. Sì, appunto, l'ultima novità è la dichiarazione di Bonanni, fiducioso sull'accordo, se c'è esulteremo. Intanto all'Unione Industriale è ripresa alle 12 la trattativa tra aziende e sindacati per lo stabilimento torinese di Mirafiori, il secondo passo dopo Pomigliano del piano Fabbrica Italia. Al tavolo ci sono Paolo Rebardengo, responsabile delle relazioni industriali del Lingotto, e la delegazione dei sindacati FIM, FIOM, WILM, FISMI, CGL, Associazione Quadri. Secondo alcune indiscrezioni Fiat si sarebbe detta disponibile a dialogare su 2 punti: regolamentazione dei diritti sindacali e assemblee. Vedremo come reagiranno i sindacati, che esprimevano alla vigilia sensazioni diverse. Ottimista Roberto Di Maulo della FISMIC, per cui siamo alla giornata conclusiva, da chiarire ci sono solo 2 o 3 punti secondo Di Maulo su pausa, mensa, fine turno e assenteismo. Per il segretario torinese FIM CISL Claudio Chiarle, se tutti fanno un passo indietro l'accordo si fa, mentre Eros Panicali, responsabile auto WILM, ha promesso un bel regalo ai lavoratori, ma ha anche chiesto a Fiat un aggancio più forte al contratto nazionale. Molto più pessimista FIOM per il segretario torinese Bellono: o c'è uno sforzo autentico per venirsi incontro, o se no è difficile che accadano cose positive. Più caustico responsabile nazionale auto Airaudo, secondo cui Marchionni immagina un sindacato fornitore di consenso come se fosse un componentista, mentre il segretario generale Landini è sembrato chiudere ogni spiraglio, si sta andando, ha detto, verso una riedizione di Pomigliano con alcuni aggiustamenti. E per ora è tutto. Grazie Paolo Piacenza. Sui giornali di oggi leggiamo che è in arrivo una direttiva europea sugli extracomunitari e le espulsioni dei cittadini clandestini. Potrebbe essere una mezza rivoluzione per l'Italia, perché sono molti i punti di conflitto con la normativa italiana. Lasciati in sala moia, senza punti chiave condivisi su cui muoversi, dice Stefania Trincarata, presidente della Confederazione Giudici di Pace, a proposito della direttiva europea sull'immigrazione che da domani entrerà in vigore in Italia, ribaltando in alcuni punti chiave la Bossi-Fini sull'immigrazione. Sentiamola. Le dico, è tutta, adesso bisognerà vedere se dovrebbe il Ministero a questo punto, credo, mandarci delle direttive da questo punto di vista, o dei chiarimenti, oppure i singoli uffici chiederanno magari dei chiarimenti da questo punto di vista. Però state un po' lasciati in salamoia, ecco come si può dire, ma ci siamo ormai abituati, quindi. La direttiva che da domani entrerà in vigore tocca nel vivo la Bossi-Fini. Ad esempio, in caso di ricorso, i rimpatri dovranno essere sospesi. Non solo, salta il concetto di detenzione in un centro per l'espulsione e l'accompagnamento forzato alla frontiera. Al loro posto, la direttiva europea prevede che al clandestino venga garantito un periodo che va dai 7 ai 30 giorni per allontanarsi volontariamente. Il divieto di reingresso per uno straniero già espulso prevede, secondo la Bossi-Fini, 10 anni di attesa. Secondo Bruxelles, dopo 5 anni decade il divieto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E a Milano sono giorni, settimane turbolenti sul fronte dell'ospitalità ai cittadini stranieri, in particolare ai Rom. Oggi la visita del cardinale Tettamanzi al campo Rom di Via Triboniani, la visita che arriva qualche giorno dopo la decisione del Comune di Milano di non assegnare più alcune case popolari alle famiglie del campo, appunto, di Via Triboniano. Decisione rigettata però dai giudici. Sentiamo le parole del cardinale. Dobbiamo tutti quanti insieme ragionare e trovare una soluzione che sia davvero rispettosa di tutti, dei diritti di tutti, delle esigenze di tutti, dei doveri di tutti. Il desiderio l'abbiamo, perché non venga meno la speranza, e poi perché davvero si possa arrivare a questo miracolo, che il campo tribuniano non ci sia più a Milano, ma ci sia una realtà davvero più umana, più umanizzante. Negli stessi minuti, contemporaneamente, e a testimoniare quanto ci siano diverse posizioni su questo argomento, il vice sindaco di Milano, Riccardo Decorato, ha deciso di portare gli auguri di Natale ai residenti del quartiere Rubattino, dove qualche mese fa è stato sgomberato un grande accampamento nomadi abusivo. Farò gli auguri natalizi, ha spiegato Decorato, ringrazierò i cittadini per la pazienza che hanno avuto nel sopportare l'abusivismo dei nomadi. E adesso torniamo per un approfondimento in Costa d'Avorio con Gigi Donelli, che è qua in studio con noi. Una situazione ormai esplosa, 170 morti, davvero una situazione difficile, e c'è l'ordine di evacuazione per i cittadini europei e per gli italiani in particolare, Gigi. Sì, purtroppo la situazione effettivamente precipita, 173 morti, 90 casi di tortura, 470 arresti, quelli sono i numeri ufficiali presentati dal vice alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Kyung-Wha Kwang. Insomma, una situazione che scivola di ora in ora e viene confermata da quelli che sono i dati appunto numerici delle violenze. Per quanto riguarda la città, in particolare Abidjan, è stato effettivamente diffuso il consiglio a lasciare la Costa d'Avorio, una comunità che per quanto riguarda gli italiani è composta da poche centinaia di persone, ma sono migliaia invece i francesi, importante anche la comunità tedesca. Insomma, è una comunità naturalmente molto attiva negli affari, nell'attività portuale, e che viene coinvolta indirettamente in questa crisi, perché di fatto la comunità internazionale sta pressando nei confronti del presidente uscente Gbagbo perché lasci il potere. Dunque il pericolo che gruppi di giovani manifestanti, insomma il braccio armato dell'attuale presidente, possa prendersela con i bianchi. Spieghiamo ancora una volta, Gigi, di che cosa stiamo parlando, cosa sta succedendo, cosa si profila per la Costa d'Avorio tra i contendenti. Sì, stiamo parlando di un paese che purtroppo da più di 10 anni è diviso su una linea che in maniera molto semplificata si divide tra il sud e il nord. Due personaggi attualmente, il presidente Gbagbo e il premier Soro, che hanno cercato appunto di portare a una pacificazione il paese, le elezioni poche settimane fa, e la sconfitta del presidente Gbagbo è tale, è stata definita da tutte le autorità internazionali, che lo stesso presidente rifiuta. Nelle ultime ore i segnali sono gravi, perché il premier, quindi l'esecutivo della presidenza, appunto Soro, dice purtroppo ormai l'unica soluzione è l'uso della forza, invoca dunque l'uso della forza contro il suo presidente, mentre il presidente risponde con i toni del nazionalismo ivoriano, dicendo siamo forti, siamo coraggiosi, chiama alle armi i giovani. Una situazione che purtroppo si è già verificata 10 anni fa. Grazie a Gigi Donelli in studio per il punto sulla situazione drammatica in Costa d'Avorio. Torniamo invece alle cose di casa nostra, come si suol dire, per argomenti molto più futili. Il Natale, e vediamo quale sarà il tempo, purtroppo non positivo. Una schiarita è prevista per Santo Stefano. Giovanni Di Piero del centro Epson Meteo. Un tempo diciamo discreto, insomma con perlomeno asciutto, senza piogge e con qualche apertura tra il basso Adriatico e il versante ionico. Altrove continueranno a prevalere delle nuvole, i fenomeni potranno essere meno intensi ma ancora possibili in gran parte del nord, del versante tirrenico e delle isole. L'aria un po' più fredda che favorirà delle nevicate in quota sul lungo Appennino, in quota anche sulle Alpi, dopodiché alla fine del giorno un'irruzione di aria decisamente più fredda raggiunge il nord, per cui deboli fenomeni che potranno interessare la Valpadana nella notte tra Natale e Sant'E Stefano potranno trattarsi anche di alcuni fiocchi di neve a bassa quota nel settore centrale della Valpadana. Veniamo quindi alla giornata di Santo Stefano, questa aria fredda proseguirà il suo cammino verso sud, quindi porterà un raffreddamento anche abbastanza marcato in gran parte del centro-sud, però perlomeno al nord avremo già un miglioramento, tra le Alpi e le zone poi di montagna potremo avere delle schiarite, invece c'è una fase di maltempo la potrebbe vivere il centro, in parte anche il sud, con le zone interne del centro, delle nevicate fino anche a quote collinari. E adesso vogliamo parlare un po' anche di noi, perché per Radio 24 questo 2010 è senz'altro un anno da ricordare. Sentiamo perché. L'anno che sta per chiudersi è stato davvero ricco di riconoscimenti per Radio 24. Un bilancio più che positivo visto il numero di premi vinti da giugno ad oggi. Dalla menzione speciale al premio Marco Rossi per l'approfondimento co-working l'ufficio condiviso trasmesso da Italia in controluce realizzato da Maria Luisa Pezzali, al premio per la satira politica di Forte dei Marmi per la rubrica Il Graffio di Dario Ceccarelli vinto in settembre. E poi ancora in novembre il premio Vincenzo Donna al programma Salvadanaio di Deborah Rosciani e il premio Arete ad Essere Benessere di Nicoletta Carbone. In dicembre infine altri due premi, il prestigioso Ambrogino d'Oro della città di Milano a Radio 24 e quello dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità sia alla radio che a Nicoletta Carbone. Con questa motivazione, come ci ha spiegato il presidente della stessa agenzia, Giuseppe Castronovo. Perché abbiamo avuto sempre da parte di Radio 24, Sole 24 Ore, una grande attenzione, disponibilità verso i problemi dei non vedenti, verso il gravissimo ed importantissimo problema della prevenzione della cecità, perché un cieco su tre non sarebbe tale se avesse praticato la prevenzione della cecità. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura due aggiornamenti che vengono da Palazzo Chigi e dalla conferenza stampa di Silvio Berlusconi, che annuncia la richiesta di una commissione parlamentare per valutare se ci sono PM, pubblici ministeri eversivi, appena battuta così dall'Ansa senza altre aggiunte. E poi a proposito della situazione politica, dice Berlusconi a gennaio, se non avremo una maggioranza contro le nostre previsioni, ne dovessimo non avere una maggioranza sufficiente per continuare a governare e non galleggiare, andremo al voto. E questo è l'ultimo aggiornamento per questa edizione di oggi di GR24. Alessio Maurizio in studio, Paolo Corleoni in regia, il coordinamento Maria Piera Ceci. Grazie per l'ascolto. Adesso Italia in controluce, poi America 24. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.